Ingrid. Allungò meccanicamente la mano e spense la sveglia del cellulare dopo meno di 2 secondi che suonava. Si sentiva lucida e riposata. Mentre si infilava la vestaglia e usciva in punta di piedi dalla camera, Tommy borbottò qualcosa dal letto. All'attaccapanni dell'ingresso era appesa la giacca che avrebbe indossato quella sera. Nel taschino, sotto il fazzoletto, era infilato un sacchettino con 2 grammi di coca. Una volta in cucina, Ingrid accese la caffettiera che aveva preparato la sera prima e lanciò un'occhiata al calendario degli impegni di Tommy sullo schermo del computer. 20. Motonave Scandinavia. Il gruppo mediatico internazionale, che oltre all'Aftonpressen possedeva solo in Svezia 2 canali televisivi e dozzine di altre pubblicazioni, aveva noleggiato la maestosa imbarcazione per la propria festa annuale. A quanto Ingrid aveva capito, visto che grazie al tempo mite le acque attorno a Stoccolma erano rimaste sgombre dai ghiacci, avrebbe fatto una piccola crociera nell'arcipelago. Quando Tommy si era sentito in dovere di invitarla, lei aveva detto di no, con sollievo di entrambi. Il che però non le aveva impedito di far inserire nell'elenco degli ospiti, a nome di Tommy, una certa Natasha Svanberg. Ingrid sentì scorrere l'acqua al piano di sopra. Tommy si stava facendo la solita doccia veloce. Tirò fuori una tazza, la riempì di caffè, aggiunse un po' della coca che aveva tenuto da parte e girò accuratamente. Poi versò una tazza anche per sé e aprì l'iPad.